Letture di Radio 24. Nel nome di Allah, il misericordioso, la pace scenda sul profeta. Lo dico, sono a Orlando e ho fatto io la sparatoria. Così Omar Mateen, telefonando al 911, ammise di essere stato l'autore della sparatoria avvenuta la notte dell'11 giugno 2016 all'interno del gay club Pulse di Orlando, che costò la vita a 49 persone. Mentre poche ore dopo l'attentato di lunedì scorso a Londra tutti già parlavano di islamofobia, ad un anno di distanza dalla sparatoria di Orlando, i media faticano ancora ad associare alla strage la parola Islam, optando invece per un generico e innocuo hate, commenta Giulio Meotti in un articolo pubblicato sul Foglio. Il New Yorker, in un articolo sul custode del cimitero dove riposano le vittime del Pulse, riesce a non citare mai il nome del terrorista Mateen, scrive Meotti, che poi prosegue. La CNN pubblica un articolo in cui si parla di 5 familiari delle vittime, si dà risalto alla necessità del gun control e al fatto che al Pulse sono stati uccisi in nome del hate. Emblematico della negazione è stata un anno fa l'affermazione del giornalista Glenn Greenwald, che ha insistito sul fatto che Mateen non ha mostrato alcun segno di fanatismo religioso. Il Dipartimento di Giustizia rilasciò la trascrizione della telefonata di Mateen dal Pulse dopo averla purgata di tutti i riferimenti all'Islam o allo Stato Islamico, giustificandolo col desiderio, come disse l'Attorney General Loretta Lynch, di evitare di rivittimizzare coloro che erano stati uccisi. L'FBI, un'ora dopo, fu costretta a diffondere la trascrizione completa. Nei giorni scorsi, USA Today ha affermato che l'attacco terroristico al Pulse ha creato una cultura di paura dei musulmani che temono per la loro vita. I musulmani non esistono mai come colpevoli, soltanto come vittime, e l'Islam viene citato soltanto prima della voce fobia. Un anno dopo Orlando, un inglese si è lanciato con l'auto contro i fedeli della moschea di Finsbury Park a Londra. Dopo già un paio di ore, i media non avevano dubbi. Islamofobia. Niente cautele in questo caso. Un anno dopo, su Orlando, manca ancora il movente. Quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Giulio Meotti, Orlando, un anno dopo, da Il Foglio del 20 giugno. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Letture di Radio 24. Non ci sono soltanto il Blue Whale o gli altri giochi social che portano al suicidio. Il vero pericolo per gli adolescenti è il sexting. Ci si conosce appena e ci si giura amore eterno. Poi, dopo 3 settimane di ti amo, ci si lascia. La regola se si hanno 13 anni. Una volta bastava il bigliettino tra i banchi, ti vuoi mettere con me? Oggi la domanda si fa su WhatsApp e l'amore, per 1 su 4, passa anche dal sexting, ossia l'invio di foto e video a sfondo sessuale. Se mi ami, mostrami le tette, scrive Luca, 15 anni, ad Agata, 13. Nelle ultime settimane molti genitori si sono preoccupati che i loro figli entrassero in contatto con Blue Whale, ossia il macabro gioco online che spingerebbe gli adolescenti a superare sfide estreme fino al suicidio, sottovalutando però altri fenomeni molto comuni che coinvolgono percentuali sempre più alte di teenager tra i 12 e i 18 anni, sexting compreso. Su 1.112 ragazzi curati nel 2016 dal Centro Multidisciplinare sul Disagio Adolescenziale del Fatebene Fratelli di Milano, l'80% ha avuto problemi online. il 40% proprio per l'invio di materiale sexy, ed è un fenomeno in crescita che inizia alle scuole medie. La storia di Elena, 14 anni, ne è un esempio. Il suo profilo Instagram è chiuso, le sue foto le può vedere solo chi la segue, ma a volte accetta l'amicizia di qualche sconosciuto. Così entra in contatto con Marco, 16 anni, che abita in un'altra città. Iniziano scambiandosi like, poi passano ai commenti complimento, chattano e decidono di mettersi insieme. Dopo qualche settimana lui le chiede la prima foto via WhatsApp, poi la vuole vedere nuda. «Se mi ami, lo fai», le dice. Elena acconsente. Gli manda le foto del suo seno, del suo sedere. Quando Francesca Maisano, psicologa del Fate Bene Fratelli, cerca di farle capire la gravità del gesto, lei risponde: «Dovrebbe vedere che video mandano le mie amiche ai loro fidanzati». La situazione le è sfuggita di mano. Dopo qualche mese lascia Marco. Lui non accetta la fine della loro storia e la ricatta. «Se mi lasci, mando tutte le foto ai tuoi amici e alla tua famiglia». Sono dovuti intervenire i genitori, che erano all'oscuro di tutto, e la psicologa. Marco ha promesso che avrebbe cancellato quelle foto, ma qualche amico di Elena, alla fine, le ha ricevute. L'associazione Pepita Onlus ha fatto un'indagine sul sexting. Alla domanda «per quali ragioni hai deciso di condividere un contenuto sessuale ricevuto da un'altra persona?», il 29,5% dei ragazzi ha risposto «per dimostrare di essere figo». Da un'indagine del 2016 condotta da Censis e Polizia Postale emerge che circa il 10% dei dirigenti scolastici italiani ha dovuto gestire episodi di sexting, dice il commissario capo Rocco Nardulli, responsabile del settore prevenzione generale della Polizia Postale Lombarda. Al commissariato di Milano, spiega, il sexting è il fenomeno per cui sono più contattati. Le famiglie dei ragazzi, disperate, si rivolgono a noi perché scoprono che le foto dei figli sono state pubblicate su qualche sito porno o girano per la scuola. In questi casi la polizia si assicura che l'adolescente abbia il giusto supporto psicologico per affrontare la situazione, poi parte con le indagini. Se si agisce in fretta, si riesce a fermare la diffusione del materiale. Il rischio è sempre che, quando una cosa finisce sul web, se ne perda il controllo. Avete ascoltato l'articolo di Greta Privitera, «Mi ami? Mandami una foto, nuda», da Vanity Fair del 21 giugno. La morte del matador Ivan Fandigno, incornato dal toro sabato scorso nell'arena di Air-sur-la-Dur, Francia meridionale, ha suscitato commozione nel pubblico, ma anche esultanza in rete da parte degli animalisti. Si riaccendono ancora una volta le polemiche attorno ad uno spettacolo che, ormai bandito a Barcellona, si sta spostando sempre di più verso il sud della Francia. In una intervista realizzata da Beatrice Montini per il Corriere della Sera, il filosofo Peter Singer esprime tutta la sua contrarietà verso questo rito. «Non ha alcun senso, ma questo a prescindere dalla morte del matador. Ritengo che in generale non abbiano mai senso gli spettacoli in cui gli umani tormentano e torturano un animale, indipendentemente da come vadano a finire. È giunto il momento di mettere la parola fine non solo alla corrida, ma a ogni tipo di manifestazione culturale che comporti crudeltà di qualsiasi tipo verso gli animali. Esattamente come è avvenuto a un certo punto della nostra storia con la pratica di mettere le persone a rogo o di lapidarle. Non riesco a capire e giustificare in alcun modo il mantenimento della corrida in alcuni paesi. Ci sono molte tradizioni simili che non esistono più da tempo. La maggior parte degli umani sono specisti, il che significa che non si interessano alle sofferenze degli esseri viventi che non fanno parte della loro specie, anche quando quelle sofferenze sono molto simili a quelle umane, se non maggiori. E questo è sbagliato. Oggi c'è più consapevolezza delle cose sbagliate che stiamo facendo agli animali. Basti pensare che l'intera Unione Europea ha vietato alcune delle peggiori pratiche negli allevamenti, e questo ha alleviato le sofferenze di centinaia di milioni di animali. Tuttavia, altre forme di detenzione, anche se lievemente meno estreme, permangono, e quindi continua a esserci un'immensa sofferenza inflitta agli animali. Questi i commenti del filosofo Peter Singer contenuti nell'articolo di Beatrice Montini, «Il filosofo Singer, un rito senza senso. La tradizione non lo giustifica». Dal Corriere della Sera del 19 giugno. Una pista ciclabile da Bolzano allo stretto di Messina e il divieto assoluto di apericena. Ecco alcune delle cose che farebbe Gerry Scotti se fosse l'imperatore del mondo. Come imperatore ho scelto il nome di Virginio Scotti, principe di Campo Rinaldo. La seconda parte è uno sfizio da sovrano. Il primo, invece, è il mio vero nome, con cui pochissimi mi conoscono. Nel mio regno lavoro per garantire una qualità della vita migliore. Ho introdotto oasi speciali per gli anziani, visto che tra un po' lo sarò pure io. Ci sono panchine, pensiline, attrezzi per la ginnastica, tavoli per giocare a scacchi e a carte, consultori sempre aperti e nonni che possono fare i nonni anche a chi i nonni non ce li ha più. Ho liberato i bambini dai troppi impegni e poi ho elargito un bonus sorriso. È una grande novità. Tutti coloro che durante il giorno fanno più sorrisi vengono premiati. Tutte le famiglie hanno almeno un animale: cane, gatto, cavallo, maiale, canarino, quello che vogliono. La mia reggia è una casa fatta di pane e salame sui colli vicino a Pavia, mia città di origine. Ci vivo con la mia famiglia. Non ho bisogno di consiglieri. Nel mio impero non ci sono politici. Al loro posto ho scelto un congresso di brave persone. Sono mamme, papà, pensionati, giovani. Costano pochissimo e non chiedono neppure il rimborso spese. Ho bandito gli odiatori e i prepotenti e ho abolito l'apericena. Vietato anche solo esporre il cartello. Sì, signori, da quando sono imperatore o si fa l'aperitivo o si va a cena. Questo mi ha creato qualche nemico, ma non posso stare fermo di fronte agli attacchi alla nostra lingua. Sto lavorando anche a una grande opera, una pista ciclabile da Bolzano a Reggio Calabria. Prometto che sull'Appennino ci metto un trenino elettrico dove caricare le biciclette, perché in salita anch'io ho qualche difficoltà. Dite che è una follia? Dicevano così anche per il Colosseo. Avete ascoltato l'articolo di Gerry Scotti, un'oasi speciale per i nonni, dal magazine 7 del 15 giugno. Cosa passa nella testa di un neomilionario? Lo sanno bene quelli della Sisal, la concessionaria di giochi e lotterie che esordì 70 anni fa con il Totocalcio e che oggi opera soprattutto con il Super Enalotto. Una nonna vuole pagare gli studi universitari ai nipoti. Un pensionato immagina un corso di paracadutismo a 70 anni. E poi c'è quella domanda che si pongono tutti, appena diventati milionari. Perché proprio io? La risposta non cambia mai. In fondo me lo sono anche un po' meritato. Ho lavorato tutta la vita, sono sempre stato onesto. Milano, via de Tocqueville, sede della Sisal, la storica concessionaria che opera nel gioco e nelle lotterie e che cominciò nel 1946 inventando il Totocalcio. Chi varca questo ingresso con una schedina vincente, in genere custodita nel portafogli, ma ci fu chi arrivò con vigilantes e furgone blindato, si appresta a diventare milionario. La pratica per ottenere la somma vinta dura circa un'ora. Bastano schedina, codice fiscale, documento e coordinate bancarie. Cosa passi nella testa del neo paperone in quei momenti? Lo sa bene Laura Casè, la funzionaria Sisal che una volta sbrigato l'iter intervista i vincitori. Ma solo se ne hanno voglia e nell'assicurazione del più rigoroso anonimato. Accettano quasi tutti. E a fine anno sono circa una cinquantina le persone che in questa chiacchierata confidenziale svelano progetti e sogni. In fondo è l'unica occasione di poter davvero raccontare le proprie emozioni, perché poi scatteranno altre ansie. È il caso di quel sessantenne che sulle prime pensava di acquistare una berlina, salvo cambiare repentinamente idea virando su un'utilitaria per non segnalare ai vicini il cambiamento del tenore di vita. In generale, la prima reazione resta sempre quella dello stupore. Si fatica a credere che una giocata da 2 euro abbia davvero procurato una cascata di denaro. Però è così. Si giocano piccole cifre per divertimento, gli spiccioli in fondo al portafogli e magari davvero ti cambiano la vita. Le differenze tra uomini e donne sono notevoli. Le prime pensano al prossimo, l'auto ai figli, la casa da ristrutturare, mai un gioiello. I secondi vogliono il Rolex, ma c'è anche quel marito che intestò tutto alla moglie, ignara della vincita. Disse che l'amava e che voleva farle una sorpresa. Nessuno vuole lasciare il lavoro, una certezza. Qualcuno immagina di donare soldi a canili, associazioni di volontariato e ricerca, ospedali. Poi ci sono quelli che vincono e non lo sanno. È il caso di due giocate del 15 aprile, rispettivamente da 3 e da 7,50 euro, realizzate a Sulmona e Sestri, e valse un assegno da 1 milione. La scadenza per la riscossione è il 14 luglio e ancora non si è presentato nessuno, ma confidiamo nel lieto fine. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandro Fulloni, La prima ora di un neomilionario, dal Corriere della Sera del 19 giugno.